Io non avevo mai pensato che mio padre avesse voglia di rompere un vetro di casa sua. E invece, dopo aver spaccato quella finestra, mi sembrava felice come poche altre volte. Siamo saliti in casa e lui mi ha detto: «Sai cosa? Mi metto pure io a scrivere una lista di desideri». Ecco che cos'è. Che forse prima ancora di realizzarli, i desideri vanno interpretati, vanno intuiti. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. È lunedì 3 gennaio del 2011, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Today's talk is not about death, it's about life and how to live. Specifically about childhood dreams and about how you can try to achieve them. My childhood dreams, your childhood dreams. È importante avere sogni precisi. Quando ero alle elementari, molti bambini volevano diventare astronauti. Io sapevo fin dalla tenera età che la NASA non mi avrebbe mai voluto. Avevo sentito dire che gli astronauti non portavano gli occhiali. Mi andava bene così. In realtà non mi interessava affatto diventare astronauta nel senso stretto della parola. Io volevo semplicemente fluttuare. Un giorno scoprii che la NASA ha un certo aereo che usa per addestrare gli astronauti all'assenza di gravità. Tutti lo chiamano Vomit Comet, anche se la NASA lo definisce la meraviglia dell'assenza di gravità. Io ci andai. Il mio sogno divenne possibile quando scoprì che la NASA aveva un programma per gli studenti del college. Potevano proporre un progetto e sperimentare l'aereo. Nel 2001 il nostro team di studenti presentò un progetto e andrammo al centro di realtà virtuale. Probabilmente ero più eccitato io dei miei studenti. Fluttuare. Poco dopo però mi diedero una cattiva notizia. La NASA era stata chiarissima, per nessun motivo era permesso ai docenti di facoltà di volare con gli studenti. Mi si spezzò il cuore. Tuttavia non mi scoraggiai, avrei trovato il modo per aggirare l'ostacolo. Mi mise a leggere attentamente tutta la documentazione relativa al programma e ne trovai una, un piccolo spiraglio. La NASA, sempre pronta a farsi pubblicità, permetteva a un giornalista locale della zona del college di accompagnare gli studenti per il volo. Chiamai un funzionario della NASA per avere il loro numero di fax. Accompagnerò i miei studenti nel mio nuovo ruolo di esponente dei media. La mia esperienza in assenza di gravità fu magnifica. Riuscii a salire su quell'aereo, riuscii a farlo quasi 40 anni dopo che fluttuare in assenza di gravità era diventato uno dei miei desideri. Ecco, questo dimostra che se si trova uno spiraglio, è possibile anche trovare il modo di attraversarlo, magari fluttuando. Buon 2011 a tutti, oggi è il 3 di gennaio, è la prima puntata di Io sono qui. L'ho cominciata leggendo un pezzo di un libro che si chiama L'ultima lezione, la vita spiegata da un uomo che muore. Randy Pausch era un professore universitario, nel 2007 gli diagnosticarono un cancro che gli fecero capire non aveva speranze. Lui allora decise di scrivere un'ultima lezione che intitolò esattamente Realizzare davvero i sogni dell'infanzia. Era una sorta di lezione che lui teneva in realtà per far capire ai suoi figli, ne aveva tre, quando sarebbero cresciuti chi era lui e cosa voleva fare della sua vita. Il 18 settembre del 2007 lui tenne questa lezione, in cui raccontò che cos'erano per lui i desideri dell'infanzia, che poi erano sperimentare l'assenza di gravità, vincere il peluche più grosso a Luna Park, diventare un giocatore professionista di football americano, firmare un articolo sulla World Book Encyclopedia e progettare i parchi della Disney. Leggete questo libro ha un bel modo per farci capire a tutti quanti quali sono i nostri sogni, cioè più che altro cercarli e poi provare a realizzarli. 800 24 0024 349 238 6666. Mettetevi lì 5 minuti. È il 3 di gennaio. Pensate a tutto l'anno che avete davanti e pensate a un desiderio che voi veramente avete da tempo e che realmente volete realizzare. 800 24 0024 349 238 6666. Io, i miei, ho già iniziato a farli. La sera dell'ultimo giorno dell'anno ho fatto un regalo ai miei genitori. Prima di uscire per il cenone, li ho fatti scendere nel garage e gli ho mostrato una grossa scatola di cartone, fatta su con un nastro rosso. Lì per lì non hanno capito bene il motivo di questo regalo, visto che il Natale era passato e loro avevano già avuto la loro parte di doni. Poi l'hanno aperto. La scatola conteneva 8 doppi vetri per finestre, della misura standard di 120x140 cm. Nel pacchetto era compreso anche il montaggio da parte di un tecnico che sarebbe arrivato quando loro avrebbe fatto più comodo, per cambiare tutti i vetri che io avrei rotto a pallonate. Quando li hanno disimballati tutti, mio padre si è girato con aria interrogativa. Allora mia madre invece con aria rassegnata lo ha guardato e gli ha spiegato: è la storia della lista dei desideri. Fa fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi, scalare il Monte Rosa, attraversare l'Atlantico su una nave cargo, lanciarmi col paracadute da 6.000 metri, sposarmi a Las Vegas, non importa con chi, giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo, portare a cena fuori Natalie Portman, fare un viaggio in mongolfiera, spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli, imparare a suonare la batteria, incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama, fare un viaggio con la Transiberiana, vedere una finale del Super Bowl, vedere il Taj Mahal, attraversare la foresta amazzonica, vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada, imparare il cinese, imparare l'arabo, prendere il brevetto da pilota e quello da sub, e poi imparare a camminare sul filo. Quando avevo 14 anni, in terza media, mi ero convinto di poter fare un po' quello che mi pareva. La terza media, molto più della quinta elementare, è la prima esperienza di anzianità che si sperimenta nella propria vita. Frequenti tutti i giorni lo stesso luogo e nell'arco dei 3 anni ti accorgi di diventare, insieme ai tuoi compagni, il più anziano della scuola. Vedi quelli che arrivano spauriti lì in prima media, che erano come te qualche anno prima, ma non te lo ricordi già più come eri tu qualche anno prima. Sai solo che sei il più esperto della scuola e ti senti il più forte di tutti. Ecco, in terza media insieme a Mirko e Ettore andavamo a giocare a pallone, facevamo i tuffi dal ponte del Naviglio e guardavamo sotto le gonne delle ragazze. Le cose che si sono sempre fatte si fanno ancora, solo che prima non lo si sapeva e adesso sì, invece, grazie a YouTube. Io mi sentivo forte e anche un po' cattivo e non sapevo che quella sensazione sarebbe passata di lì a pochi mesi, quando avrei iniziato il liceo e sarei diventato di nuovo una matricola, di quelle che vengono prese in giro da quelli più anziani e che fanno la faccia spaurita di chi non sa dove si trova. Mi sentivo forte e anche un po' cattivo e mi piaceva quella sensazione perché i cattivi sembrano sempre più interessanti dei buoni. E io non so perché, però avevo paura di passare per quello buono e un po' cretino e quindi facevo quelle cose che mi facevano sentire meno cretino e più cattivo. Alla fine della terza media, dopo l'esame, con Mirko ed Ettore andammo a fare un bagno nel Naviglio. Lì vicino c'era una vecchia fabbrica tessile abbandonata, di quelle che a inizio secolo avevano dato lavoro a metà abitanti del paese e poi non si sa come era fallita. E ne era rimasta giusto la struttura in riva al Naviglio, dove ci tingevano la stoffa. Abbiamo fatto il bagno tuffandoci da una tettoia che copriva dei vecchi lavatoi e poi ci siamo addentrati nell'edificio, che come tutti gli edifici abbandonati esercitava su di noi un fascino morboso. Credo fosse un richiamo verso la decadenza. All'interno c'erano dei vecchi telai arrugginiti, una pressa enorme e poi tutta l'immondizia che chissà chi abbandona negli edifici che non hanno più un proprietario. Siamo arrivati fino all'altra uscita della fabbrica e ci siamo ritrovati in un grande cortile dove non ci eravamo mai spinti. E come noi, probabilmente c'erano arrivati in pochi, visto che la parte di fronte a noi aveva dei grandi finestroni di quelli industriali, ancora intatti. Non ci abbiamo pensato nemmeno un minuto. Ci siamo guardati intorno per cercare dei sassi. Quei vetri intonsi in un posto abbandonato erano un invito troppo grande per non dare sfogo alla nostra finta cattiveria. C'è un senso di libertà nell'infrangere dei vetri vergini, che non ha pari con altre pratiche che non richiedono un grosso impegno emotivo. Mirko ha preso un mattone sbeccato, io, Ettore e 2 sassi, e ci siamo messi in linea uno a fianco all'altro. Il primo a lanciare è stato Ettore, che ha bucato la parte alta della finestra, lasciando una traccia minuscola nel vetro. Ettore ha preso la mira e ha centrato la finestra in un punto più basso, che ha forato il vetro e ha fatto crollare tutta la parte alta della finestra, che era rimasta senza appoggio. Il fragore dei vetri sembrò fortissimo, sembrò infinito. Scoppiamo in una risata che serviva soprattutto a esorcizzare quel rumore. Ettore e Mirko si girarono a guardarmi, perché era il mio turno. Io presi la mira e lì sentimmo una voce che urlava: «Oh, avete finito o no?» Insomma, io quel vetro non lo ruppi. La voce che mi bloccò il braccio durante il lancio era quella di un agricoltore, che era stato attirato dal rumore e ci aveva voluto sgridare. in quel modo senza senso e senza diritto che ogni tanto gli adulti hanno con i ragazzini. Così, giusto perché lui aveva 30 anni più di noi, aveva deciso che poteva dire di smetterla. Cioè, poteva dire di smetterla di rompere dei vetri di una fabbrica abbandonata che non servivano più a nessuno. Ora, lo so che avrei potuto fregarmene e tirare comunque quel sasso, ma all'epoca il lancio mi morì nelle mani. Mirko ed Ettore si girarono e iniziarono a correre verso la porta da cui eravamo entrati. Io per un istante rimasi immobile, sentendo la mano piena di quel sasso pesantissimo, come non mi era ancora sembrato quando l'avevo raccolto. Poi lo lasciai cadere e corsi anch'io verso l'uscita. Ecco perché. Ecco perché nella lista dei miei desideri ce n'è uno, quello più assurdo forse, che è rompere tutti i vetri delle finestre al piano terreno della casa dove sono cresciuto. C'è una parte di cattiveria repressa in me, che è come un peso, rimasto tutto dentro a quel sasso non lanciato. L'ho covato in tutti questi anni e ho deciso di liberarmene. Sì, perché anche a 35 anni, rompere un vetro con un sasso o con un pallone è un gesto dirompente, è quasi rivoluzionario. È qualcosa che può riportare ad uno stato fanciullesco della vita, che permette di rivivere un'adolescenza che è rimasta intatta come il vetro di quella fabbrica. Ora quella fabbrica non c'è più, ma c'erano quelle quattro finestre, ciascuna composta da due vetri, che io ho deciso di rompere. E così, la mattina del 1° gennaio, ho fatto come sempre. Ho visto il concerto di Capodanno, perché a casa mia il 1° gennaio si guarda sempre il concerto di Capodanno. Ho aspettato la marcia di Radetzky, quella in cui il direttore d'orchestra si gira e dirige il pubblico che applaude ritmicamente, come se fossero tutti ubriachi alla festa della birra. E appena finita, mi sono vestito. Ho messo le scarpe da ginnastica. Ho guardato i miei e ho annunciato che era arrivato il momento. Ormai i miei genitori si erano rassegnati al fatto che il loro figlio avesse deciso di spaccare i vetri del piano terreno con un pallone la mattina del 1° gennaio. L'unica cosa che li preoccupava era la sensazione che potevano avere tutti i vicini che avrebbero creduto che fossi impazzito. Ormai però il dado era tratto. In garage ho tirato fuori da un armadio un vecchio tango, l'unico pallone non di cuoio in grado di sopravvivere ad anni e anni di angherie contro di lui. Era sgonfio, ma sapevo che avrebbe fatto il suo lavoro. Cadeva un misto di pioggia e di neve il 1° gennaio a Romentino, ma la mia famiglia era tutta schierata nel cortile. E non si sa come, ma quella che sembrava un'idiozia, improvvisamente, si era trasformata in una piccola missione da compiere. Al punto che anche negli occhi di mio padre vedevo nitidamente curiosità e quasi un briciolo di invidia nei miei confronti. Più che per il gesto in sé, proprio per la possibilità che mi stavo concedendo di mettere in atto un gesto così illogico, eppure per me così significativo. Sono entrato al piano terreno, ho tirato su tutte le tapparelle delle finestre in modo da avere la maggiore superficie possibile a disposizione. Poi sono tornato fuori, nel cortile. Ho posizionato il pallone proprio sopra il tombino, nel centro dello spiazzo. Ho alzato gli occhi, ho visto i miei zii affacciati al balcone in tuta, che sorridevano mentre il vapore gli usciva dalla bocca. Ho pensato a Wesley Snyder, al modo in cui lui avrebbe calciato quel pallone per indirizzarlo esattamente in mezzo al perimetro degli infissi. Ho preso la rincorsa e ho calciato. Ci ho messo poco meno di 15 minuti a rompere i vetri. Il primo tiro era forte ma decentrato ed è finito sul muro. Il secondo era giusto ma troppo debole. Il terzo ha preso in pieno il vetro, che è venuto giù come ghiaccio sgretolato. C'è stato una specie di sussulto tra i miei genitori e i miei zii. Alle finestre improvvisamente si sono affacciati prima l'angelo e l'Achille, poi Tommaso e Francesco. Mia mamma ha cercato di giustificarmi dicendo che, sapete, è una cosa che fa per la trasmissione lì in radio. Come se il lavoro alla fine giustificasse tutto. Anche spaccare dei vetri a pallonate la mattina del primo giorno dell'anno. Io intanto continuavo a rompere i vetri. Col pallone, ovviamente. Al terzo ormai la tecnica era affinata. Lo colpivo di collo pieno, come se volessi colpire la barriera durante una punizione. E più li rompevo, e più quello che facevo non era una stupidaggine. più facevo una cosa per cui si proverebbe vergogna o si verrebbe rimproverati, e più sentivo che quella era la cosa giusta da fare. Mai, come mentre stavo infrangendo quelle finestre appallonate, capivo che quella cosa lì avrei dovuto farla molto tempo prima. E che le cose non sono mai completamente senza senso. Hanno il significato che è cresciuto lentamente dentro di noi. E pensavo anche che realizzare un proprio desiderio irrazionale il primo giorno dell'anno sarebbe stato di buon auspicio per tutto l'anno nuovo. Quando ho rotto il penultimo vetro, il gruppetto di persone intorno a me ha fatto un applauso, come se l'impresa fosse ormai compiuta. Ne mancava uno. Ho sistemato il pallone per terra. Solo che con la coda dell'occhio ho visto mio padre che diceva qualcosa a mia madre e poi sorrideva. Mi sono girato e l'ho guardato. Ho capito che intenzione aveva. Mio padre mi è venuto incontro e mi ha detto: «Lo fai rompere a me quest'ultimo?». Io allora mi sono spostato. Lui ha preso la mira e ha tirato. Il vetro si è spaccato a metà. La parte sopra è rimasta sospesa come incastrata negli infissi. E poi, dopo un paio di secondi, è venuta giù come una ghigliottina. Ho abbracciato mio padre e siamo scoppiati a ridere. Ecco cos'è. È che forse prima ancora che realizzarli, i nostri desideri vanno interpretati, vanno intuiti. Io non avrei mai pensato che mio padre avesse voglia di rompere un vetro di casa sua. Invece, dopo aver spaccato quella finestra, mi sembrava felice come poche altre volte. Siamo saliti in casa e lui mi ha detto: «Sai cosa? Mi metto pure io a scrivere una lista di desideri». E mentre lo faceva lui, si è messa a scriverla pure mia mamma. E poi pure mia nonna. E allora fate così, fatelo anche voi. Prendetevi 10 minuti e pensate a dei desideri da realizzare. Andrea, sciare di nuovo. Dario, finalmente riuscire ad adottare il nostro bambino. Eleonora, fare un corso di sommelier. Giovanni, riprendere il capitolo che ho bruscamente interrotto dall'altra parte del mondo. Maddi, non avere più paura di niente. Chiara, comprare la casa su cui io e mio marito abbiamo puntato gli occhi e fatto un sacco di progetti. Elisa, trovare di tanto in tanto il tempo per andare a comprarle l'acqua per mio nonno, che lui non chiede mai. Però, secondo me, quelle bottiglie da portare a casa ormai sono troppo pesanti per lui. Teresa, essere chiamata finalmente maestro. Corrado, correre la mia prima maratona. Marco, tornare a correre 10-15 km come ho fatto per 20 anni. Emanuele, imparare il portoghese e forse farmi un periodo nel Brasile del boom. Marco, trasferirmi a Londra, lavorando e guadagnando lì. Silvia, avere il coraggio di farlo. Laura, vincere il premio Solinas con un'idea geniale per un film che mi hanno ispirato tutte le persone conosciute nel 2010. Roberto, fare le vacanze estive a Lisbona con concerto dei Bon Jovi incluso. Erika, citando Ben Harper, trovare una casa al mio per sempre. Ecco, questi sono alcuni dei desideri che sono arrivati sul profilo Facebook Matteo Caccia. Io sono qui di alcuni degli ascoltatori che hanno provato a mettersi lì e a pensare a quali erano i desideri che volevano realizzare in questo 2011. È un modo per cercare di capire quello che vogliamo e un pochettino anche per cercare di capire chi siamo. Più tardi sentiremo quelli che all'800240024 hanno chiamato per raccontarci quali sono i desideri per il 2011, ma dopo, ora la borsa e dopo Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in casa di qualcuno, che non credo sia la casa della persona che si è fatta la foto. Sembra più una vecchia casa di una famiglia ricca, direi. C'ha dei drappi alle finestre e ha dei mobili antichissimi. Così, a vedere un parquet incrociato di quelle da primi Novecento. La foto è particolare perché il protagonista della foto, cioè la persona che ha fatto lo scatto, se l'è fatta allo specchio. Per cui c'è lui che tiene in mano una macchina fotografica diretta nello specchio. Si vede appena appena la cornice e a tutti gli effetti sembra quasi la scenografia di un film. Filippo Maria Fontana, 32 anni. In villa stile Cluedo, in provincia di Piacenza, per sopralluogo. Sono ingegnere e devo vedere se ci sono crepe e come sono. Intanto trovo un vecchio specchio rovinato. Io sono qui. Grande Filippo. Si sentiva che era ingegnere, guarda, da quando ha attaccato a parlare che era un ingegnere. Per la precisione, devo dire, anche dalla foto un pochettino si capisce, perché ha le tipiche valigette che hanno gli ingegneri, quelle nere, serissime, che non lasciano nulla alla fantasia. La foto è come al solito sul sito radio24.it, anche oggi che è il 3 di gennaio, il sito è attivissimo e quindi potete vedervi la foto di Filippo sul nostro sito. Oggi, lo avrete capito, è la puntata dedicata ai desideri del 2011. Ognuno c'ha i propri, che siano grandi o piccoli, che siano importanti o meno, per ciascuno hanno un proprio valore. Io e i miei li ho già elencati da mo' e vi ho raccontato come ho distrutto tutti i vetri di casa mia. Ci sono però delle persone all'ascolto che hanno invece voglia di raccontarmi quali sono i loro desideri per il 2011, quindi direi che non li facciamo aspettare e andiamo subito a Bologna da Vanna. Pronto, Vanna? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Io bene, spero tutti voi. Lo spero anch'io. Beh, innanzitutto buon 2011, Vanna. Beh, anche a voi, e speriamo che sia veramente un anno migliore, insomma. Perché il 2010 com'è andato? Beh, diciamo che è apatico, amorfo, grigio. Perché, Vanna, che cosa fai nella vita? Io faccio l'impiegata amministrativa in una ditta. Che fa che cosa? Che vende articoli professionali. Senti, invece questo 2010 è un po' apatico. Invece il 2011, dimmi qual è la cosa che vorresti accadessi, che vorresti che accadesse e che farai accadere nel 2011. Vorrei che scoppiasse in bellezza quest'anno, dai primi di gennaio, nel senso che voglio trasferirmi in montagna, sulle montagne più alte dell'Arco Alpino. Cioè, dove esattamente? No, nel senso, in breve, ho conosciuto un paesino quasi per caso che è sulla costola di una montagna quasi al confine con l'Austria. Si chiama il paese? Non lo dico. Non lo dici per scaramanzia? No, esatto, oltre che per scaramanzia, perché sto avendo contatti con gente del luogo per fare una cosa. E cosa hai intenzione di fare esattamente in quel posto nel 2011? Ah, beh, è un posto meraviglioso, 10 case, una bellissima betaia, un cimiterino, una chiesa, come sono tutti i paesi, insomma, di montagna. Cioè, ma tu vuoi andare a vivere là? Sì. Ah, ok, questo mi sfuggiva. E senti, e come pensi di vivere? Ah, bello, insomma, questo paesino meraviglioso non ha neanche un negozio. Ah, ecco, e noi andiamo là ad aprire un negozio. Noi andiamo là ad aprire il classico spaccio di paese, dove si vendono, si comincia con gli alimentari, le cose di immediato bisogno. Fino alle calze invernali da infilare tutto, negli scarponi. Tutto, per rendere viva la comunità, insomma. Vanna, pensi di andarci a vivere da sola, con tuo compagno, con tuo marito? Sicuramente col mio cane. Quanti anni hai, Vanna? Io ho 51 anni. Senti, però noi rimaniamo in contatto, se nel 2011 ci vai e noi siamo ancora qua, ci sentiamo. Eh beh, certo, vi mando anche la foto. Brava. Vanna, grazie mille, buona giornata e buon 2011. Buona trasmissione a tutti. Ciao. Grazie, ciao Vanna. Andiamo a Borgo Manero da Tommaso. Pronto, Tommaso? Ciao Matteo. Ciao, ci sei? Buon anno anche a te. Bravo, Tommaso. Sì, ci sono. Senti, raccontami qual è il tuo desiderio per il 2011. Il mio desiderio materiale. Io vorrei comprarmi una bella Fender Stratocaster per il 2011. Allora, per chi non ne sa di musica e di chitarre, spieghiamo che cos'è la Fender Stratocaster. È una chitarra elettrica americana. Tu quanti anni hai? Cosa fai? Suoni? Io ho 24 anni e suono, ma strimpello solo... Insomma, autodidatta. Hai un gruppo o suoni per i fatti tuoi? No, sono per i fatti miei. Senti, il classico festicciola tra amici. Tapparelle giù. Salta fuori la chitarra, quattro accordi. Chi è che c'era qualcuno di famoso che suonava la Fender Stratocaster? Sì, infatti proprio perché io ascolto tanto Eric Clapton, i Pink Floyd, David Gilmour. È un desiderio che ho da un po' di tempo, mi piace proprio come oggetto. Quanto costa? Diciamo che bisogna tirar fuori €1.000 per il modello base, diciamo. Tu cosa fai? Studio o lavori invece, Tommaso? Io lavoro. Vabbè, quindi insomma, vivrai ancora con i tuoi? No, da solo. Bravo, Tommaso. Quindi insomma, devi farti un mutuo per comprarti sta chitarra. Sì. Senti, Tommaso, io lo so. Ti auguro un buon 2011 e facci sapere se la prendi sta chitarra. Grazie mille, auguri a voi. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Andiamo a Borgosesi, andiamo da Andrea. Pronto, Andrea? Ciao, buongiorno. Matteo, come buon anno a tutti. Buon anno anche a te, come stai? Abbastanza bene, grazie. Tu hai grandi progetti per il 2011. Abbastanza, sì. Il 2010 è stato molto pesante, perché io sono direttore finanziario, ero di un'azienda, di un gruppo americano che ha deciso di chiudere la filiale italiana per la crisi e tutto quanto, quindi mi sono dovuto gestire anche la parte della chiusura, licenziamento di 60 persone, tutto quanto. Il tatto è stato molto molto pesante, molto stressante sotto molti aspetti umani. Certo, quindi 2011? Quindi 2011 avrei deciso di prendere e viaggiare, fare un viaggio intorno al mondo. Hai deciso di farti il famoso anno sabbatico? L'anno sabbatico, che avevo già rimandato perché l'avevo già pianificato nel 2000, anche lì avevo avuto un po' di problemi lavorativi. La mia fidanzata da allora ha deciso di non venire con me perché non voleva lasciare il lavoro, poi mi hanno, diciamo, riassunto subito, e adesso invece no, adesso non sto cercando, anche perché al momento comunque non è difficile. È difficile. Senti Andrea, dimmi, voglio fare questo. Fammi venire un po' d'invidia, dimmi alcune tappe del viaggio. Allora, la prima sarà il Brasile. Io nel 96 sono stato per un anno in Brasile a lavorare, tantissimo. E quindi ci torni. Ho conosciuto parecchie persone veramente speciali, veramente notevoli, ma non ho avuto modo di conoscere il Brasile più di tanto, se non San Paolo, che poi è una specie di Milano. Poi dimmi altre tappe. E poi vorrei andare in Cina, in India, in Australia, sicuramente. Senti, dimmi pure, vorrei? No, vorrei abbinare le due cose, cioè quella di viaggiare, vedere un pochettino, fare un pochettino, ma proprio poco il turista, e tanto invece cercare di capire come si vive in quelle nazioni. Senti Andrea, facciamo così. Sì? Visto che tu vai via e te ne stai via un anno, tu ci dai, lasci un tuo contatto di quelli che avrai nei vari paesi. E poi ci sentiamo periodicamente quando ti sposti. Caspita, che bello. Fai un buon viaggio e fai un buon 2011, Andrea. Grazie mille. Grazie altrettanto a voi. Ciao, alla prossima. Un abbraccio a tutti. Grazie. Ciao Andrea. Grazie. Andiamo a Padova, perché Veronica ha un desiderio che secondo me è il migliore di tutti. Pronto, Veronica? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie, te? Io me la cavo, insomma. Cominciato bene il 2011? Sì. Senti, dimmi, è stato abbastanza bello. Dimmi qual è il tuo desiderio, Veronica. Il mio desiderio è un po' così, che è smetterla di mangiarmi le unghie. Oh, vedi, però questa è una roba concreta, capito? Cioè, non è che vuoi andare in giro per il mondo o vuoi andare a vivere in un paese di montagna. Semplicemente c'hai ste unghie che te le mangi fino a qua, fino all'orlo, esatto, giusto? Esatto. Ed è una roba orribile, esatto, soprattutto su una donna. Sì, lo dicono tutti. Ma c'hai già provato, Veronica, e non sei riuscita, oppure... Allora, era da 2 settimane che mi impegnavo a non mangiarle. Sì. E ho mandato a monte il lavoro un paio di giorni fa, perché ho dovuto esporre un lavoro all'università di fronte a tutti e... Sì. Ed eri troppo nervosa. Di nuovo. Che cosa studi all'università? Scienze sociologiche, sono al terzo anno. Veronica, in bocca al lupo per la tua università e per le tue unghie. Buon 2011. Grazie mille, ciao. Ciao, grazie, ciao. L'ultima telefonata di oggi, andiamo da Alessia a Como. Pronto, Alessia? Ciao. Raccontami il tuo desiderio per il 2011, Alessia. Ma allora, io vorrei ritornare a cantare, perché è una cosa che ho smesso di fare praticamente 4 anni fa, ovvero quando mi sono trasferita per lavoro a Como. Sì, perché a Como non si canta, nessuno. E infatti, no, ma sai cos'è? Che ho cantato 10 anni, avevo tutti i miei giri, i miei agganci, i locali, le cose. Poi ti trovi in un posto nuovo, la gente nuova, un lavoro molto impegnativo, che quindi... Che cosa fai nella vita? Io lavoro per un'azienda di abbigliamento, non so se posso fare... Ma certo che puoi farlo, vai! Lavoro per Napapiri, North Face, tutto quel gruppo lì, e quindi... Ma cosa fai per loro? Vendi, compri? No, io faccio proprio... Sono tra l'ufficio stile e lo sviluppo prodotto, quindi creo e sviluppo il prodotto. Addirittura! Senti, e che cosa canti invece? O che cosa vorresti tornare a cantare? Ma io ti dico... Tempo fa facevo un po' di tutto, mi andava bene qualsiasi cosa, pur di cantare, mi sono adattata a suonare con gente che veramente non ne capiva nemmeno niente di musica. Sì. Vorrei veramente ritornare a cantare come voglio io, tra virgolette. Dai, ovvero... fammi un esempio, cantami un pezzettino. No, va bene, non è il jukebox, sono d'accordo. Però dimmi una canzone che vorresti cantare. Ma io sono un amante di Jeff Buckley, quindi tutto quello che è, diciamo, molto soft, acustico e molto... Non spararmi subito Alleluia, però, perché altrimenti... No. Cioè, è la roba più inflazionata da 10 anni a questa parte. Assolutamente no, tra l'altro no, Alleluia assolutamente no, però ci sono un sacco di artisti che non sto qui a farti nomi, e non è detto che devo per forza fare... cose di altri, a me piacerebbe fare anche robe tue. Musica mia. Senti Alessia, io allora facciamo così, visto che questo è il tuo desiderio per il 2011 e visto che l'ho già fatto anche con gli altri, tu fammi sapere quando canti, che magari veniamo a vederti o magari ci mandi qualcosa di registrato tramite Facebook. Ok, va bene. Ti auguro un buon 2011, grazie mille. Grazie. Ciao Alessia, buona giornata. Ciao, grazie. Questi erano i desideri degli ascoltatori di Io sono qui per questo 2011. Prima vi ho letto però una parte di un libro, di questo libro che si chiama L'ultima lezione di Randy Pausch. Vorrei chiudere questa puntata, che è la prima puntata del 2011, leggendovi la parte finale, che ha a che fare con i desideri e con i sogni. Stavo finendo la lezione, ero in cattedra da poco più di un'ora. Al contempo mi sentivo bene e soddisfatto. Avevo chiuso il cerchio. A 8 anni, per la prima volta, avevo buttato giù un elenco dei miei sogni. Ora, 38 anni dopo, quell'elenco mi aveva aiutato a esporre quello che avevo da dire e mi aveva sostenuto. Il mio elenco dei sogni dell'infanzia ha continuato a servirmi per un sacco di motivi. Ecco, ora, l'ora di lezione appena trascorsa mi aveva insegnato qualcosa. Mi aveva insegnato che c'erano delle cose dentro di me che avevano un disperato bisogno di uscire. Non tenevo la lezione solo perché volevo, tenevo quella lezione perché dovevo. Mentre mi rilassavo verso la fine, ne ho approfittato per riguardare alcuni punti chiave, per poi fare un riepilogo, ma con un imprevisto, un finale a sorpresa. Ho guardato la platea e ho detto: «Dunque, la lezione di oggi verteva sulla realizzazione dei sogni dell'infanzia, ma avete capito la finta di gambe?» Ho fatto una pausa, l'aula è rimasta in silenzio, e io ho detto: «Non è su come realizzare i vostri sogni, ma su come vivere la vostra vita. Se la vivete nella maniera giusta, il vostro karma andrà a posto e saranno i vostri sogni a raggiungervi». Grazie a Randy Pausch, grazie soprattutto a Tiziano Bonini, a Vittoria Mussini e a Paolino Corleoni. Voi frequentate i vostri sogni. Il 2011 comincia così.